già fatto la prova con un altro elemento d'alluminio del genere. Ho visto che ci entra dentro benissimo, quindi la tiro giù, taglio 20-30 cm in questo tubicino e poi gli faccio l'innesto, così almeno in quel punto non si piega più. Perché se ho qualche pezzo d'alluminio, io con quella c'è dove averla. Non è il diametro? L'aveva mai dato, non me lo ricordo, lo devo misurare col calibro, quando l'ho lasciato te lo posso dire. Io qua da 10 mm ce l'ho, poi anche rimane l'antenna, forse non manca qualche pezzo di quella antenna in televisione, che ogni tanto non è caduto dai tetti, no? Io questo lo trovo per terra, li raccolgo, non si sa mai, può sempre servire questo alluminio tutto vicino. Io c'ho un paio di quelli, saranno lunghi 2-3 tubicini di quelli da 40 cm, dai. Voglio mettergli uno di quelli, vediamo un po', così lo rigirisco appena appena. Magari lo faccio da 30, dai, piuttosto che metterglielo tutto intero. Lo faccio da 30 e così le robustisco proprio dove c'è la giunzione. Perché l'altro, lo stilo, quello che sta sotto è molto più grosso come sezione, capito? E quindi quello là, logicamente, che sta in punta è molto più sottile, quindi tende a piegarsi. Poi se ci appicciate un po' di buchi. Infatti dovete trovare uno grosso che entra in quello inferiore e poi un altro più piccolo da mettere su, in modo che riesce a riportare che parte il riporto potete partire dalla parte inferiore, prendere tutti e due e poi lo accompagni fin dove vuoi. No, il problema, cioè la giunzione tra lo stilo inferiore e lo stilo superiore, l'ho ovviato con un tubo di rame. Ci ho messo un inserto da 15 cm, capito? Che prende 7 cm il radiale inferiore e 7 cm il radiale superiore. Però la piega si fa sempre dopo la giunzione, capisci? Quindi devo infilare questo tubicino d'alluminio dentro il radialino sottile e infilare il tutto dentro il tubicino di rame, capito? Così recisco il radiale di punta, dai. Perfetto, allora si a posto, quindi la parte di sotto la già hai riportata. Si tratta solo di salire un po' più su. Sì, allora dovete risolvere, dai, quando la accompagni una 30 cm, penso che il vento non la pieghi più. No, ma infatti è quel punto lì, capito? Cioè una volta che robustisco lo stilo, quello sottile, dove c'è la giunzione praticamente, perché la piega si forma sempre in quel punto lì, capito? Quindi materiale più debole tende proprio a pigiarsi. Ecco, vediamo un po' se è entrato Claudio. Negativo, Gianfranco, ci sei? Sì, ci sono in ascolto, però sono un attimino impegnato e rientro tra una mezz'oretta. Saluti anche all'altro collega che è entrato. Sì, ti lancio anche il collega Gianni. Ciao Gianfranco, buonasera, ben ascoltato. Stavo elencando i miei problemi riguardo l'antenna, basta. E chi non ha problemi in questo periodo? Riprendi, Fra, io rimango, come detto, in ascolto per una mezz'oretta, poi tornate rientro. Sì, capa, già sta tranquillo. È così. Anche qui ho visto lo stesso, che il supporto che tiene la mia antenna si sta un po' deteriorando, si sta un po' marcendo. Tra un po' devo rifare il bicchiere nuovo, magari devo farlo zingato leggermente più, e in più aperto sotto in modo che l'acqua defluisca, che non si riempia tipo bicchiere. Se ristagna guai. Adesso voglio prendere un tubo, un tubo un po' più lungo, perché quello che c'è, boom, è corto, era stato installato per l'antenna TV, sarà forse 1,80, forse non arriva neanche a 2 metri. Voglio andare da Marcito qua, a Viale Produttore, se prendere almeno uno da 3-4, dai, in modo da tirarla un pelino più su. Però vabbè, non ha problemi. problemi adesso, ma giusto per essere un po' più tranquilli, dai. Beh, stazionale non ne hai, no? Assolutamente no, non si muove per niente l'ago. Quindi già non hai problemi col tetto, con la base. Quindi tu dai, muovi. Dai, sei abbastanza aperto, non hai problemi di... Non penso che cambi parecchio, sollevati uno o due metri in più in quella zona tua, penso di no, non lo so, quindi tu. No, almeno, cioè, almeno di un metro, perché veramente è corto, cioè, quel tubo era stato messo per reggere l'antenna TV, quindi figurati tu quanto poteva essere lungo. Tra l'altro non fai che sia 1,80, è veramente corto, quindi 1,80 di metri, buona, ma non mi ne ammetto, l'ho misurato quando stavo piazzando l'antenna, quindi tirarla un metro più su già, secondo me già non gli fa male, dai, oltre non ha senso. Beh, male non fa, non disturbi nessuno lì, vero? No, negativo, cazzo, con 3-4 watt dove vuoi andare? Ehi, vabbè, a volte basta anche un microfono dedicato che spara un po' più del normale e vai a disturbare. No, praticamente hai visto più o meno in che posizione è l'antenna, cioè c'è l'uscita della tromba delle scale e tutte le antenne TV sono messe praticamente dalla parte opposta, dai, dove c'è il parapetto del terrazzo. Ah, attento, Pedisvella, c'è Pedisvella qua, chiama Pedisvella. Avanti, Casarella. Ok, qua Brittella, chiama Pedisvella, avanti Garganella. Sì, Brittella, avanti. Buonasellaro. Avanti Ravanellaro. Buonasellaro, Cadarella, qua chiama Pedisvella con... Pedisvella, Cadarella, Petaparella. E Tombarella. Sono la Pietro. Sì, Franco, vabbè, Frank. Luca, lascia la bottiglia, lasciala che ti fa male. Che? No, fra, quello è fine settimana. Settimana solo acqua e basta. Sto dando un po' di numeri. Luca, ciao. Ben ascoltato. Ciao Franco e ciao Gianni. Avanti Gianni. Ciao Franco, buonasera, ben entrato e ciao anche a Luca. E a quali come siamo messi, fra? No, rubinetti da venire un mese. Ogni tanto no, che ne arrivi qualche imbarriata, e guardiamo l'orizzonte, si sa mai che arrivi una bella scarica di fulmine, ma come stavo dicendo a Franco stamattina, per precauzione ho staccato il PL, dopo la tempesta ho preso il PL in mano e è arrivata la schicchiata. No, non è così grave. Poi poco fa c'era un po' di ghiaccio, un po' di ghiaccio sulle strade, però sulle Sassari. Però scendendo, poco fa non c'era più niente. Beh, un po' ce l'abbiamo presa, un po' di grandine, fra. Sì, un pochettino ce l'abbiamo presa, quella sì. Vabbè, purtroppo. Il tempo è, la stagione è quella. Avanti Luca, Pedisvella, Casarella, Garganella. Quindi è andato di me? È andato a guardare il sirupo di pure più. Non è possibile questa cosa. Entra gamba tesa e poi lo chiami, non c'è più. Capo. Luca è così. Luca deve essere che sta facendo qualche lavoro. Adesso ti ascolto meglio, fra. Sicuramente ti è abbassato il QRM. O forse hai guadagnato qualche watt in più tu, dai. Tutti e due magari. Sì, qualcosa in più adesso lo sto dando. Perché è più caldo, l'ho lasciato acceso poco fa, l'ho lasciato, ed è bello, al punto giusto. No, va meglio, avanti Gianni. Qua Franco è 9,15 abbondante, dai, non so io come, cioè non so come da te sia il mio segnale. Prova a vedere Gianni. Eia, facciamo un test, vediamo un po' questo grande segnalone a quanto corrisponde alle coordinate di sorso. Modulati 7,2, 7,2 modulati, però in compenso c'è la radio bellissima 5. Bene, noia. Va bene, dai, questo è M95 della ZG. Non vuole visto, però fa il suo sporco lavoro. Thank you. certo, con l'antenna e tutto, dai. Non è che... Va bene, Franco, aiuto. Vieni avanti. Invece tu ti sei nascosto, l'antenna l'hai nascosta. A Malagana, magari la potessi mettere sul tetto anch'io. Purtroppo ci adattiamo, ma è già qualcosa che riesci a sentirmi, Ma guarda, sì. Aspetta, non ti ascolta male, ti ascolto bene, adesso c'è una bella, a parte la radio, che è bellissima, poi anche il segnale, sei intorno ai 7, 6, 7, e va bene. Sì, ma non sono liscio, non sono liscio. Sennò, se io, il tuo segnale sai quant'è qua? È un Santiago di 2, la radio adesso è 4, è buona. Prima avevo difficoltà a sentirti, purtroppo è troppo bassa, non è aperta. Capa, sì, ho visto che connessioni è. No, mi arrivi 7, quasi 7, quasi 8 mi arrivi. Chi è? Natali. Chi è? Avanti. Avanti già. Ehi. Ma cosa volevo dire? Stavo pensando adesso di se c'è la possibilità di farmi un regalino e mettermi la Sigma Venom 5 ottavi, vediamo un po', dai, magari per il mese entrante, vediamo un po'. Ma ne parlano tutti bene, quello che costa è, tu sai che sia il migliore compromesso. Sì, stavo leggendo le recensioni, spesa, come si dice, rapporto qualità-prezzo è buono, dai, quindi vediamo un po', dai, se mi entra qualche spicciolo mi faccio il regalino, dai. Qualche giorno proviamo una canna da pesca, la possiamo provare dalle parti tue, se viene bene appoggiarla da qualche parte, facciamo dei test. Volentieri, ci mettiamo d'accordo, troviamo l'incastro e dai, si può fare. E vedere come, se migliora o se peggiora, così vediamo anche come è riuscita questa antenna che ho fatto. Dai. L'ho provata in campagna, ma l'ho provata praticamente attaccata alla macchina, l'ho messa appoggiata alla grondaia del garage e mi sentivano a Sassari. Stazionari non ce n'erano, è da provare in zona aperta, ci vorrebbe solo un manico, vabbè già ce l'ho, un manico di pala, qualche cosa per portarla un po' su. Eia, sì, vabbè, concordiamo il momento giusto, magari una domenica che insomma che le condizioni meteo lo permettono e vediamo un po'. Ok, avanti Franco. Capo, tu la potresti piazzare anche sul tetto, no già? Io sono già sul tetto, c'è il terrazzo che è calpestabile, la mia è agganciata praticamente alla fine della tromba delle scale, no? La casettina che spunta nel terrazzo con due staffe a parete, e vabbè, tanto quella boomerang non pesa nulla. Capo, e allora lì dovrebbe andare bene, mio fra. Caspita, c'ha una posizione invidiabile Gianni, può fare quello che vuole lì. Davvero invidiabile quella, anche non solo la posizione, la possibilità che ha di accesso, capito? Se è così va bene, sì. Caspita, meno male, mica uno che ha la possibilità di metterla sul tetto. Avanti già. Eia, te l'ho detto, non ho fatto nient'altro che mettere l'antenna nel palo dell'antenna TV, quindi era già praticamente, c'era già tutto, ho dovuto solo abbullonare la staffa della boomerang e basta. L'unica cosa che, ripeto, vorrei fare adesso, finché non cambierò l'antenna, è metterci un palo di un metro e mezzo più lungo, dai, perché è veramente piccolo quello che c'è, ma giusto così per farmi uno sfizio, dai, almeno un metro più su non penso che gli faccia male, anzi. No, non credo. Tornando a Mari, di domenica Mari, no, che sono sempre impegnato, riesco con amici, magari ti potrebbe fare qualche pomeriggio, dai, qualche pomeriggio che se sei libero, se coincide, ti fai uno squillo e la proviamo, se sono libero anch'io. Eia, dai, magari aspettiamo le condizioni meteorologiche migliori, ragazzo, perché non è igienico in questi casi, dai. No, capo, dai, finirà prima o poi questa pioggia, dai. avanti fa. Capo, e adesso non è, non è bello mettersi lì a fare antenne, aspetta, qua farò con l'acqua. E poi c'è anche freddo, non sono l'altro. Infatti dai, aspettiamo, non c'è problema. Giusto una curiosità per vedere se si arrende. Guarda, se la mette, se mette quella, io dico che arriva intorno ai 9 qualcosa qua, Può essere, vediamo come è riuscita come antenna. Questa sicuramente è quella, la prima che ho fatto, e l'ho azzeccata la prima. Lì ho cambiato il cavo, invece di farla con l'R1058 l'ho fatta con l'H155, soltanto che le misure andavano cambiate, invece l'ho fatta uguale alle misure, ma vedo un fattore di velocità diverso. I parametri bisognava cambiarli, non di tanto, però qualcosa cambia, quindi non so se si arrende bene o male, o meno, dai. Capo. Come l'hai fatta, fissa oppure smontabile? No, è smontabile, praticamente quando mi serve metto due strisce di nastro isolante in punta e poi scende in verticale, dai. Va bene. Aspetta. Io ce l'avevo una volta una canna da pesca, poi è arrivato un po' di vento e me l'ha piegata in due pezzi. Vuole in vetroresina, sicuramente un po', sarebbe meglio schiumarla e farla pezzo a pezzo, una volta che trovi la taratura giusta, la schiumi, la irrigidisci un po', dovrebbe essere meglio così, però io, la mia per esempio non è all'interno, ma è, l'antenna è all'esterno, è attaccata con del nastro, dai, quella che ho a casa. Capo, sì. E vabbè, infatti poi che si è rotta, anche in tre tipi ce l'ha fatta, e poi che si è rotta quella, allora ho preso la moto da turbo, l'ho preso, e con quella non ho sbagliato. Ho anche una mantola da provare, l'ho riparata ma è da provare, se i radiali vanno bene, boh. Mi servirebbe anche la misura che va dalla molla fino alla fine, la misura giusta mi servirebbe, perché anche lì è da tarare, da fare a misura. E che mantova è? Una mantova 1 era. Ah, era una mantova 1. Chissà, cavolo, scommetto, forse c'ho qualche radiale resina di quella Rimi. Però non sono sicuro se ce l'ho ancora giù o ce l'ho buttati. Devo guardare. E la misura è giusta quella, Sì, no, in realtà ce l'ho anch'io, soltanto che diciamo, i cappuccetti in ottone, o il rame, forse in ottone, si sono tutti rovinati, quindi si sono tutti sfaldati. Adesso li ho ricostruiti, gli ho messo una bocca in alluminio e gli ho fatto diciamo, l'avvolgimento con del cavo in rame esterno praticamente, però un cavo telefonico non so neanche se vada bene, ci vorrebbe quel rame, quello così isolato, dai. Ma per i radiali stai dicendo? Sì, i radiali sono in vetroresina, però all'interno della vetroresina ci passa un cavo spiralato all'interno che noi non vediamo, e lì ormai si è interrotto perché mi si è spezzato il cappuccetto, diciamo l'inizio della boccola. Ecco, quando li puoi mettere anche in alluminio qui li puoi mettere? Cosa gli fa? Sì, ma in alluminio vorrebbero 2,75 m. Ecco. Gli fai 2,75 m, gli fai. Tanto sono. La moto V1 c'ha 4 radiali c'ha solo. Sì, ma si è resettato il break, si spetterebbero subito, si posa un cornacchiotto da 1,5 km e ti spezza tutto. Un attimo, chiedo scusa, faccio venire avanti il break. Ok, grazie, scusate se lo distruggo, sto cercando un amico, faccio una chiamata e me ne vado. Attenzione Franco, se ci sei, rispondi, se no, tirate un good. Ciao agli amici, sto ascoltando. E Franco chi? Allora, è quel ragazzaccio, cosa si chiama, che abita al monte lì, sull'auto parco, Franco? Franco Piga, dove la chiavi fuori? Non lo so, allora, dai, Franco, non può essere. Ho capito forse, non mi viene il nominativo adesso. No, California può essere, no, non mi ricordo. Franco? Un vecchio civico che ho conosciuto quando ero ragazzino, io sono mancato tanti anni, sono rientrato adesso, ma sto cercando di sentire gli amici. Riprendi, ci sentiamo, comunque siamo Bruno. Ciao Bruno, io sono Franco, un compagno di Gianni e un altro Franco da Sorso. Dai, fa piacere che entri qualcuno di nuovo, dai, nuova linfa. Avanti Gianni. Eia, ciao Bruno, ben entrato e buonasera. Siamo qua a farci due chiacchiere, dai. Comunque, se ti vuoi trattenere non ci sono problemi. Avanti, Sorso. Cappa, ciao Bruno, comunque, ben ascoltato. Non so se mi ascolti, perché tu mi arrivi bacino, però ti ascolto bene. Ti ascolto, nessun problema. Comunque dovrebbe essere Franco California, dovrebbe essere o Fra. Infatti immaginavo, qui dal monte, qui arriva fortissimo, ma anche Bruno arriva bene. Anche tu sei al monte, Bruno? Ma guarda, io non ti arrivo a fare il passo, come macchina, passiamo, vai, vado, non ti vedi amici. Siamo già volte, quelle tassi non li sento, c'è anche le sotto, no? Non troppo forte, ma lo so. La radio era buona. Hai capito, Franco? No, si è abbassato del tutto adesso, adesso è in movimento. Sì, è in macchina, penso che stia salendo verso Monte Bianchino. Tra un po' lo sentiremo sicuramente meglio. No, qui arrivi fortissimo, qui sei oltre 9.30. Sì, si vede che sei con un po' di QSB, ma sei fortissimo. Hai capito, Fra? Capo. Sì, sì. Infatti l'ultimo passaggio non ho capito niente, perché si è abbassato di segnale a zero e ho sentito bisbigliare e basta. Sì, sì, no, ha detto che in macchina sta salendo dalle parti alte. Avanti Gianni. Sì, in barra mobile, a quanto ho capito. No, io qua già arriva forte, dai. E niente, Luca è sparito, Luca a Bisese. C'è qualcosa che risponda? Non risponde più Luca adesso è al lavoro, e poi sta ridendo adesso, vedi? Non lo vedi Fra? Sta ridendo sotto i baffi, se ce li ha ancora, buh. Capo, io magari era... non ho notato dov'era, se era a casa sua oppure a casa della ragazza. Non lo so neanche io, perché sono molto simili i segnali, a meno che non a te non riesco a vedere la differenza, se no è minima. Perché arriva forte anche con da casa di Marina, no, arriva fortissimo anche da lì. A casa è più forte, a casa sua, però si difende bene anche da quella zona. Avanti Gianni. Ehi, sì sì, lo ascolto bene, benissimo in entrambe le situazioni, dai. No problems. E sicuramente sta facendo qualcosa di più importante, dai. Volevo dire una cosa, va, mi è passato di mente. Vediamo se c'è ancora Bruno. Bruno? Sì, sono a luna e sole. Forse sto già cominciando a migliorare. Qua arrivi un figurone, dai, ti ascolto benissimo, anche il segnale è bello prepotente. Guarda che ho vecchio, di 50 anni, sono appena cavalitato sul tetto, dalla macchina, non si dico altro, va. È roba che avevo quando ho smesso 30 anni fa di usare questa roba, non ti dico altro. Ecco, 9.20, qua, presi stazione ferroviaria, vediamo Franco, avanti freccia rossa, dai, ma non seguo dei chiamati. Forse ho sentito qualcuno che ha beccato, c'è qualcuno che vuole entrare? Sì, forse ho parlato sopra di Gianni, comunque mi hai sentito sia Franco che Gianni, il profeta, e Bruno, che probabilmente è qua vicino perché sta arrivando molto forte. A chi tocca avanti? Vediamo Bruno prima, dai. Io adesso sono a luna e sole, sto salendo un altro per sentire un po' me, già faccio il parcheggio e sono verso la zona quadrata, dai. Sentite, ciao. E qua super i 9.20, dai. Vediamo adesso Franco e poi Gianni, il profeta. Sì, c'è anche Franco di Sierra Oscar, qui Sorso. Qui invece sei sceso a 9, da 9.20 sei sceso a 9, mentre stai parcheggiando. Però va benissimo, no, non ci sono problemi. Avanti Franco di Sorso. Capo, sì, adesso lo ascolto anche io, più bene a Bruno, lo ascolto. Ciao Roberto, buonasera, avanti. Sì, ciao, scusa, non te l'ho sentito, mi hai sentito anche a te. Avanti Gianni. Eia, ciao Roberto, ben entrato. Niente, stiamo facendo un po' di conversazione, dai. Ma hai fatto qualche modifica tu, Gianni? No, negativo, perché? Mi sa che c'hai quei picchi super di 9.25 e tu. No, non c'è toccato nulla, no, è tutto sigillato e puntellato, no, non è stata fatta nessuna modifica. Vabbè, meglio così, vuol dire che sta andando tutto più che bene. Ok, di nuovo Franco di... cos'è? Franco Binario. Sì, ho sentito un bip sotto, c'è qualcuno che vuole entrare? E volevo fare gli auguri per il nominativo a Roberto. Natalino Alfa 1, buonasera. Ciao Natalino, grazie per gli auguri. Va bene, adesso sono operativo, però non dimentico qua la 27, non vi preoccupate, vi darò sempre fastidio. E fai così. Allora ti faccio gli auguri anch'io, Roberto. Lo puoi dire il nome, sì, nominativo? Aspetta, non lo posso dire, è un po' difficile da ricordare, mi devo abituare. ISL0, India Yankee Victor. Dai, non è così difficile, dai. È facile, vabbè, India. Allora, India, ma... Ah, India, Yankee Victor, è facile. Era più bello bimbombata. Auguri, vabbè, allora, dai. Allora, adesso sei già operativo al 100%. Sì, grazie Franco. Era più bello, io sei vero bimbomba, come aveva detto Natalino e Claudio. Però c'ero, vabbè. È già un grido. quello che mi piace più di tutti è quello di Walter, perché tra l'altro riporta un po' il suo nome di battesimo. Roberto, mi dica Lotto, io vai sull'R7 Alfa e stiamo aspettando a te. E lì è l'R7 Alfa, ditemi tutto. Io turni non ce li ho qua, facciamolo in diretta, Claudio. Vabbè, ho iniziato a studiarti i punti, ho la patente, te la faccio ritirare subito io. 149.45.787.5. Ok, col tono a 74. Va bene, a io c'è Marco, Walter, sono io. Ripeti, 145.787.5. R7 Alfa, quello si chiama. Il tone ce ne avrà già il 10-2000, comunque 74.4 il tono. Entra col tuo nominativo, io, muoviti. Vediamo, dai, chi mi battezza oggi. Aio, batte aria. Scusatevi un attimino ragazzi che provo a fare questa prova del battesimo. Vediamo se vi ascolto, dai. Eia, va bene. Sale nel ponte di Itti, sarebbe, no? Sì, io li sento, Franco. Oia, tutti spariti? Tutti ascoltando stanno. Tutti ascoltando stanno. Quindi l'R7 Alfa è il ponte di Itri, mi segna a me qua, mi segna Itri. Non lo so, la verità. Ciao Natalino! Ciao Fra! Ma che Franco, Zeca, la più bella Lecce, dimmi da sopra. Ah, Bruno Lagano. Buonasera. Ero qui con gli amici, poi adesso stanno staccando la terra un attimino, poi ho sentito che è arrivato tutto. Saluta Natalino, non ci sentiamo mai. Dipende, c'è anche degli altri amici. Ciao Fai, Robè. Oh, Claudio. Claudio, mi senti? Mi sento un po' male adesso, boh. E arriva male l'R7 Alfa qua, lo stesso, anche perché c'ho l'antenna bassa, Prima ne sentivo meglio, prima, boh. E anche io. A ti piace questa radio, Fra? Fra? Sì, va bene, Natali, dimmi, Fra. Ecco, Fra, vediamo mollare un attimino che mi è arrivata gente. Sentiamo, ciao Natalino. E ciao anche a Gianni. Ciao Fra, alla prossima, un abbraccio. Avanti Gianni. Ehi, ciao Franco, alla prossima. Saluto anche Natalino, visto che non ho avuto la possibilità. Ciao Natalino, buonasera. Buonasera, ti piace questa radio, Gianni? Va benissimo, come la voce originale in verticale, dai, va benissimo. Un'altra cuba, Cosa c'hai? Un'altra roba accesa? Boh, a me hai detto già. Positivo, ho detto, in sottofondo si sente che hai altra roba accesa. Sì, sì, lo provo, anche se quando schiaccio un po' di disturba. Beh, vedi tu. Cioè, proprio a un palmo dal finale. Bruno? Sì, stavo ascoltando, sto facendo, sto sistemando questo magazzino a macchina perché c'è tutti i cavi, intorno al collo, l'antenna, tutta. L'ho messa di corsa dal garage, lì, adesso sono parcheggiato qua con calma, sto sistemando. Che antenna stai usando, Bruno? Oh, è un'antenna che ho comprato da Fusa. caro, una di queste mini turbo calarizzate sulla macchina. L'ho tolta, la tenevo a casa, intanto non funzionava, avevo comprato una boomerang, quella da 3 metri, l'avevo messa sul balcone, ma era peggio della macchina. No, no, arrivi bene. Quanto è alta? Non ho capito, di... Quanto misura questa antenna, la mini turbo? Quanto dura? Quanto è lunga? Quanto misura? Ah, no, no, non è molto lunga. L'idea sarà un metro e mezzo. Credo che siamo più di un metro e mezzo, no, no. Un metro e mezzo, poi piccola. Una mini turbo, l'ho comprata da Fusaro, funziona bene in macchina. Non ho comprato un'antenna per casa, pure una di quelle bombe da 3 metri, ma tanto l'ho tolta, non esiste via, non mi sentiva nessuno. Ma no, Gianni la usa. Magari era una posizione un po' sbagliata. Gianni esce a me benissimo. Avanti Gianni. Ehi, guarda Bru, io ho montato, c'è una boomerang della Lem, vabbè, quasi 3 metri, diciamo che per essere precisi sono 2,75, dai. E ce l'ho piazzata un po', sembra che vada, poi non lo so, magari il tuo QTH non è libero come qua dove sono io, quindi boh, probabilmente per quello, dai. No, io in realtà sono secondo piano e ho parato di 5 piani, però c'è tutta una struttura che ci ho fermato, perché poi dietro ci sono degli altri palazzoni, sono un po' in basso io. Ma questa antenna ho provato a metterla là per girare a destra, a macchina, per trovare la mola, verso la città. Non so, stavo ascoltando questa via. Quando voglio sentire gli amici, metto la macchina come stasera e cerco una piattrova e faccio anche la caratina. Correggimi se sbaglio, quindi tu praticamente l'antenna era fissata in facciata o tipo in poggiolo, quindi non era sul tetto? No, era sul poggiolo, ma il problema è che non posso piazzare un'antenna sul tetto, perché stanno per cominciare dei lavori, devono fare il tetto e devono fare i lavori grossi, per cui l'impresario ha detto che vorranno almeno 4-5 mesi, per cui è inutile piazzare un'antenna adesso sul tetto e poi tra un mese che cominciano i lavori me la fanno buttare l'antenna. Poi acquistare un'antenna con io, come sempre ho avuto negli tempi, adesso purtroppo manco un po' da troppo tempo, per cui... Ehi, qua faccio questo passaggio e poi do spazio. Io ce l'ho montata praticamente su un terrazzo calpestabile, dai, dove c'è la ci siamo capiti, dai, dove c'è la come si chiama, cazzarola, non mi viene mai il termine, la definizione esatta, e praticamente non ostacoli, fa benissimo, probabilmente mettendola sul tetto avresti sicuramente risultati identici a quelli che io ho, da mi sostanza. Beh, vabbè, una volta che riesco a salire sul tetto, io sono trasferito da un annetto ancora e poi per adesso cominciare i lavori per l'installazione del tetto, poi una volta che riesco a salire sul tetto piazzo direttamente un'antenna come dico qua. Purtroppo le antenne che avevo qualche anno fa, quando mi sono trasferito, ho buttato via tutto, avevo vecchie Super Vengeance, ora Ringo, la Grand Plain, che se io trovassi una Grand Plain oggi sarebbe l'antenna più bella del mondo, per me, per quello che c'è a me, perché guarda, era con quelle della Lema, erano micidiali. Lascia perdere le Grand Plain che ti disturbano parecchio, ottime antenne, però fanno un sacco di TVI. Quindi io opterei su qualche altra cosa. Piuttosto, visto che ci sono i lavori, fatti piazzare già un bel palo in un punto come ci deve. E adesso per il tetto, sì, il tetto è bello, c'è molto spazio, io sono a prolungamento del Grande Pasco, sono verso la Montemuse. E poi piazzo palo telescopico, qualcosa piazzerò, perché metto un'antenna, una volta che sono lì, perché non è che sarei tutti giorni sul tetto a piazzare il palo. Infatti c'è questa impresa che comincia in questo mese, dovrebbe andare a finire marzo, aprile, prima di terminare, via, faccio un bel palo e poi vediamo naturalmente. Un po' più discreta, là. Certo, infatti approfitta di questi lavori, prima che finiscano ti fai sistemare un bel palo, magari murato o staffato, come vuoi tu. Vedi tu, ne avrei approfittato anch'io, là. Avanti Gianni. Poi chi ci è rimasto ancora? Boh. Non so se Natalino è ancora in ascolto, gli altri sono emigrati in altri lidi per battezzare Roberto, non lo so, Natali, ci sei ancora? Sto facendo cosa, dai, vi ascolto, per questo bene, meda, avanti Fra. Sì, sentivo il tuo eco. Sarebbe? da Benemeda. Ah. Hai sentito la tua voce? Ma ti sei spostato, Bruno? No, no, sono fermo, sono sempre qui. Sono non è solo, là. Questo quadrato. Ma che cosa fare? Vai 9? Staccato, oggi sei 7. Pensavo ti fossi mosso di qualche. Non so, di qualcosa, o hai mosso l'antenna? No, la tua antenna, ma l'antenna è sempre. Sono stato un capo adesso perché poco fa ero uscito dal garage, ho messo il capo così a depressa, non stavo funzionando bene, che era l'attacco della corrente. Non va a spostarmi un pochino, salire ancora un pochino su, ma sono per anch'io. No, non ho problemi, è che da 9 sei sceso a 7, buono, stanno. Hai mosso il cavo all'interno della macchina, qualche cosa magari hai fatto? Guarda, non devo tagliare, devo mettere 3 metri di cavo. Non ho tagliato niente, ho preso un vecchio rosso, un altro cammello, non sono riuscito mai a farlo funzionare. Questa roba vecchia che aveva il tempo che furono, poi con calma mi faccio entrare a su, discutere un po'. Ma Bruno ha bruciato tutto, Bruno! Dimmi, non sto scendo. No, a un certo punto sei salito di segnale 9:20 e poi sei sparito. So che mi sono messo in movimento, adesso sto salendo verso Monte Bianchino, vediamo un po' se sono un po' più aperto. No, anche tu hai notato questo colpo, Gianni? Lui profeta. Ma non è che era un profeta, no? Che ha fatto danno. Gianni? Eccomi. Dai Fra, io devo abbandonare la radio, dai, per stasera. Scappo che ho delle cose da sbrigare. Ok, dai, salutoni a te, Franco di Sosso, se è ancora in ascolto, Natalino, Bruno e tutti gli altri del 10, dai. Ci aggiorniamo appena possibile. Poi più avanti, Fra, quando le condizioni meteo magari sono migliori, ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo per fare quella sorta di test, ok? Ok Gianni, dai, senza impegno, dai, già lo sai, è giusto una curiosità. Giusto per fare qualcosa. Un abbraccio, stai bene, buon tutto. Avanti Bruno. Ok, un attimino che abbasso questo affare, va meglio così, questa posizione non ci metto adesso. Saluto l'amico che sta andando via. No, per me sei sceso, adesso sei sceso a Santiago 3. Hai fatto 9, 7, adesso 3. Allora, ti ascolto sempre. Porca miseria, sono salito di parecchio, sono salito. Ma adesso non ho quadrato, allora sei Natalino. Ma è anche Natalino, è impegnato. Devo fare la carta per Franco Calisturo, mi ha regalato di far fatto. Mi ha fatto entrare frequenza e poi non si fa sentire. Franco ci sei. Mi ha telefonato e mi ha detto, attacca al baracchino, mi sentiamo frequenza. E io ne ho divulgato tutto, ho messo il baracchino fax. E spesso. E chiamalo di nuovo. Sì, adesso c'è questo zona in casa sua e gli buco il rotto della macchina. Attenzione Franco. Attenzione, un lagano che ti impalzò da quelle parti. Buonasera, un lagano. Ascolti, il vecchietto della frequenza. E questo che l'avevo scritto? Ho sentito un meraviglio, penso al livello di correva sotto, deve essere qualcuno che non ha né parecchio né antenna. È a Londra, deve essere proprio così, deve essere, ciao Fra, deve essere proprio così, attento un lagano cerca di metterci a piombo, fai arrivare l'estate. Adesso, sto cercando Giulio, ci avevo sentito, una piazzola qua verso il quadrato, perché sono salito a Montagna Pino e sentivano più basso, adesso sono sceso, sono vicino al quadrato e vediamo, sono tornato nella posizione di prima, da qui mi sentivano un po' meglio. Qui stai arrivando bene, quasi 9 più 10 circa, 9-8 dai, va bene così. Ciao Franco, ben riascoltato, dai. Stavo dicendo, a me mi hai rotto le orecchie invece. Questo volume è altissimo. Questa cosa è strana, sono salito verso la donata di Monte Bianchino e si è abbassato il segnale. Sono tornato un po' più in basso verso il quadrato e sto scendo meno. Vabbè, comunque se sento a Giulio già una fortuna che è un po' di chilometri. No, ma Giulio dal quadrato sicuramente ti sente bene perché lui è sotto lì, si vede praticamente, le antenne si vedono, dai. Io avendo l'antenna tra i palazzi, se non becchi il canale canale giusto qua non entra, capito? Purtroppo la mia non è sul tetto, quindi perdo parecchio. Avanti Bruno. Infatti io, guardate, ne avevo sul balcone, non lo so, stavo già nel palazzone lì, no? Non mi sentiva nessuno, sono comprata così per la sera, sentivo. Va bene, avanti Giulio, tutto bene? Tutto bene Bru. Cos'è questa storia che non mi senti? Ma non ti vergogni a dire queste cose? Non lo sapevo, ti ho sentito, ma qualcuno ti ha prestato una testa adesso. Perché poco fa sentivo basso basso, questo mi sarei detto Bru. Per volta, se tu ti nascondi, come faccio io a farmi sentire a te se ti nascondi? Va bene, va bene, questi giorni ti ho avuto l'antenna, mi sto passando sempre sotto casato. Attento, attento. Non so se c'è ancora Natalino, Natalino ancora c'è, sì, lo riprende giù, c'è anche Natalino, se sta facendo cosa. Natalino ogni tanto si assenta, che è sempre in apparato, per cui va bene così, non c'è problema. Sì, sì, sì, sì. Va bene, dai, fra, questo uragano è proprio un vero uragano, negli anni passati perlomeno, adesso no, adesso è vento debole appena appena così, cosa uragano era una volta, adesso è il vento debole da sottosuolo. Ma è in attesa di montare una bella antenna, quindi ritornerà ad essere un uragano, da un piccolo alito di vento diventerà di nuovo un uragano. Come sono cominciato, ora vai, anche se c'è l'antenna, come deve venire su? Ehi, Bruno, stai invecchiando tu, capita, hai 15 anni, meno di me, come minimo, e mi viene a dire che stai invecchiando. No, perché? C'è 15 anni, magari. Bruno, non avevo voluto dire, qualche 65 le puoi avere, non di più no. Qualche giorno fa ho fatto 67. Se facciamo un giro di tronchi, siamo quasi 50 anni che stiamo tagliando con questo ferro vecchio. No, 50 anni lo facciamo a febbraio. 50 anni netti a febbraio. Ascolta Bruno, allora 67, 79, faccio il conto, vabbè, subito 80 ad aprile. Insomma, quanti sono? 12 anni, la differenza è 12 anni. Va bene, ma una volta ti facevamo sentire? Una volta sì, ma anche adesso non è che non ti fai sentire, già ti sento lo stesso. Però, abituato a sapere cosa può fare, cosa un uragano non è paragonabile a quello di oggi, è quello che dico io. E infatti adesso cambio dominativo, faccio chiamare Venticello. No, ma se tu ti ricordi dove ero io al monte, io avevo tutto libero, ma io sono parato di 5 piani e avevo un piano di fronte, ero tutto libero. Poi con l'antenna, con l'omnidirezionale, vabbè, a parte quella direttiva lì, ho avuto un sacco di antenne belle, a quei tempi allora non è che c'erano antenne, c'erano super regge, forse c'erano un'antenna così, avevo avuto la Ringo, che era comoda perché non aveva molti radiali, per cui per piazzarla sul mio tetto andava bene. E poi vabbè, qualche giambetto o qualcosa ce l'abbiamo avuta, non è che... certo che sì, allora in quei tempi esistevano altro tipo di antenne, oltre alle Grand Prix, la Stardaster, la Bastardaster, la Firenze 2, la Ringo, tutte queste antenne qua esistevano, vabbè, comunque, tempi, altri tempi. Avanti Franco. No, io la prima antenna che ho avuto è la Grand Plane. E dopodiché sempre Mantova 1, da lì non mi sono mai mosso. Poi questa è chiusa adesso. Una Boom era qua, ho iniziato una Boom per vedere se ci fosse qualcuno in circolazione. E poi grazie a un suggerimento di Giulio ho costruito questa canna da pesca, dai. Avanti Bruno, poi dimmi tu con che apparecchio hai iniziato. Ma noi abbiamo cominciato, almeno io ho cominciato, prima con un barattino portato, perché mi pare una vecchia più giusta, il Tokai DC506S, che mi pare fosse un 6 canali. Poi ho avuto il 5008, il Tokai 5008, poi ho avuto il Tokai 5124, perché io ho fatto il Tokai. E noi si può notare che fosse un valvolare, un Comfort 25 sì. Vabbè, a parte poi quando ho potenziato la linea Iesi, FR 50B, quelli erano già quando ho piazzato la direttiva, l'omo direzionale, vabbè lì ero già più avanti, ma negli anni 70 quando abbiamo cominciato l'apparecchio più bello che avevo era il Comfort, valvolare, era micidiale per quei stessi, e poi Gran Brene, e tutta questa anni così. Sì, anch'io ho pensato con un portatile che era un tre canali, anzi aveva solo un canale. Poi avevo acquistato i quarzi, l'avevo quartzato, avevo aggiunto altri due canali, quindi avevo tre canali in tutto. E avevo fatto l'attacco a BL perché aveva l'antenna telescopica, quindi ho fatto un attacco esterno per collegarci un'antenna esterna. Dopo di quello ho preso invece un patch 80-30, e anche quello ci va bene, abbinato con un bel microfono, era un Tanner più 3, usciva benissimo. E poi vabbè, ho avuto Samurai, Galaxy, questi qua, niente di più, dai, avanti Bruno. Quelli sono già modelli, adesso mi ha ricordato che ho avuto un patch 100 ASA, mi pare che fosse a 6 canali, era quello qui, della chiave, non ricordo ancora adesso, perché io ne ho avuto tanti questa parecchia, ma io ricordo, io figurati che la concessione, la prima concessione, siccome ero minorenne, era a nome di mio padre, non lo so se era ai primi anni 70, 72, non lo so, 72, 73, sono minorenne, io figurati. E poi hanno cominciato quelle apparecchiature, non avevo avuto tanto, il Giambo l'avevo addirittura regalato quando ho smesso una trentina di anni fa, ho dato il Giambo, avevo dato il Comfort, avevo dato, e che non trovo, mi è rimasto invece un Lafayette HD23, quello l'ho trovato in garage l'altro giorno, non riesco a trovare il Tokai 5024, perché in mezzo a tutti questi scatoloni che ho in garage, senz'altro qualcosa c'è. Sicuramente, c'è stata una bucciata, qualcuno vuole entrare, tu dici. Avanti? Negativo, avanti giù. Ok, sì. Io avevo iniziato con un Tokai sui canali che mi dava 5,8 watt, mi dava a strumento, e andava molto bene. Poi ho proseguito con un coso, come si chiama, Inuit 294, e poi a seguire tanti altri, compreso anche un autoradio con retro contenuto anche la frequenza del barattino, e dunque avevo barattino e radio in un unico corpo, questo quando avevo allora 1100D. Sì, lo ricordi uno col 1100 che avevo io, col cambio delle marce al volante? Oh, mi pare, io mi ricordo l'Alfa, che avevi un'Alfa, mi ricordo, a parte il fotocavolo. Quello è venuto dopo tantissimi anni, però, a voglia. Prima dell'Alfa è arrivato 128, 124, poi l'Alfa Sud era, l'Alfa Sud era quella, sì, o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo bene, o forse l'Arna, forse era l'Arna, che l'avevano messa in vendita lì davanti alle luci gialle, davanti al rifornitore quasi delle luci gialle. A Sassari, e siccome costava pochissimo e l'avevo comprata subito, perché era, e l'ho tenuta a roba di 12 o 13 anni e l'ho portata al ferro vecchio nuova, sai cosa vuol dire nuova, e chilometri aveva, e soprattutto aveva trasportato anche tanto materiale, tipo porte, finestre, e poco ne aveva trasportato. Pure seguire tante altre, chiaramente. Avanti, Fla. Sì, spero con l'imperiale, avevi l'imperiale sopra. Comunque il Tokai l'ho avuto anch'io, un portatile che non ricordo quanti canali avesse, un portatile era tipo azzurro metallizzato, la brice martellata. E poi ho avuto anche un Lafayette, un Dynacom 40 canali, anche qui poi l'hanno fatto brutta fine, si era mezzo bruciato il circuito di alimentazione, alla fine poi avevo portato, mi sembra, in Viale Trieste, a aiutare, poi in Viale, no, forse in Viale San Francesco, poi ha chiuso, quindi non so neanche che fine abbia fatto. Avanti Bruno. Sì, allora, quello che è colorato che stai dicendo tu, quello chiaro era 5.24, era migliore, aveva solo la gomma intorno. E invece gli altri, il 26 canali del 5.008 era grigio scuro e anche il 506S era grigio scuro, ma era senza male. Sì, la cosa è stata. No, Giulio, tu avevi un'arma Alfa Romeo Nissan Automobili. Era la morte dell'Alfa Romeo, che ne hanno venduto molte e poi però non piacevano perché era una macchina fatta in collaborazione con la Nissan, però ce ne erano molte, era un'Arna la sua, non una fasciuta. Sì, infatti l'ho detto che era l'Arna, mi ero corretto, prima ho detto la fasciuta, mi ricordavo, no, perché ho avuto anche quella, però precedentemente ancora, però poi quella che ho tenuto, l'ho tenuta pochissimo l'Arna la fasciuta, consumava anche troppo e avevo l'arna avevo, sì, quello che sto dicendo, l'avevo comprata nuova perché costava pochissimo, allora mi ricordo che costava meno di 8 milioni in quegli anni lì, a fronte di altre macchine che costavano 14-15 milioni, si parla di lire, sto parlando di lira, non di euro, e dunque era convenientissima e devo dire che mi ha fatto una riuscita eccezionale, veramente, l'ho consegnata al ferro vecchio da Coso, quello che c'era in via Castelletta, proprio perché mi ero stancato, non lo potevo, non la volevo più vedere, ma era nuova quando l'ho consegnata, nuova, soprattutto di verniciatura. Sono andata lì, l'ho mollata lì, ho tolto la batteria e me ne sono andato. Vai Franco. Franco, sei stato anche fortunato, perché mi ricordo che l'Alfa faceva un bel po' di ruggine, così è Giulio. Sì, in effetti è così, infatti c'era un negozio a fianco a me, nello stesso locale, nello stesso palazzo, un negozio di generi alimentari, allora avevo l'Alfa, anche loro avevano l'Arna, però la mia era metallizzata, era grigia metallizzata, mentre quella che avevano loro era beige, mi sembra una cosa giallina, là, come la vuoi chiamare, boh, una cosa del genere, e era tutta bucata, tutta, sembrava quel formaggio a buchi. E infatti però me l'ha bugliata, dice, buh, io non capisco come mai la tua, dice, è sempre in tazza, non c'è una punta di ruggine, quando la mia è tutta marcia, tutta bucata, perché la mia era metallizzata, o fra. Sì, no, ne ho visto anche metallizzate, marce, però purtroppo sicuramente la vince normale è meno protetta, col metallizzato c'è il trasparente, cioè è sempre una protezione in più. Scusate, mio padre aveva preso 128, ritirato, ho guardato il bordino del sottovetro, era già ruggine, cioè presa dalla concessionaria, o mica gli hanno cambiato lo sportello, l'hanno mandata in riparazione. Sì, beh, in effetti c'erano tante di quelle macchine tutte arrugginite veramente, invece la mia era sempre bella intatta. Te lo sto dicendo, l'ho tenuta parecchi anni che facevo dei trasporti e addirittura con i lavori che facevo, porte, finestre, e se sapesse quanto ne ho caricato, oppure andavo a comprare anche delle tavole, poi vabbè, avevo voi anche il motocarro, avevo comprato un motocarro, avevo comprato anche quello, già fatto la sua storia, che l'ho tenuta 35 anni, una cosa del genere. Per dire, fino a poi ne ho avuto tante altre, ho avuto la Cadet, la Opel Cadet, ho avuto la Opel Vectra 1600 cilindrata, tutte le macchine che ho avuto io hanno lavorato molto, all'infuori di quella che ho adesso, che adesso ce n'è una che ha 12 anni ed è nuova, se la vedete è nuova, è appena 40.000 km, tanto per darvi un'idea. Per cui, vabbè, poi c'è l'altra nuova ancora, ma quella non si conta, quella per 2 anni. Questa sto parlando della C3, c'erano 12 anni e oltre, 12 anni e mezzo, una cosa del genere. Anche quella, qualche cosettina già trasportato, quando dovevo andare molto lontano, si può usare molto caro per dire, se c'era a portare, per dire, non so, 2 porte, 3 porte, le carico. diciamo sull'inferiale, perché con quello arrivavo in fretta, mentre con molto padre ci voleva una vita ad arrivare se andavo in qualche paese, capisci io? Certo, no, anch'io l'ho fatto, non dico lavoro tuo, ma simile, io li facevo in alluminio, tu li facevi in legno. Però anche noi a volte trasportavamo con le macchine, con i furgoni, anche con la 500, quindi con la 500 del principale, la 500 gialla, color giallo ocra, anche quella ne ha portato, e non solo in alluminio, anche il portellone in ferro, piano piano già è sempre andente, come si dice. Avanti Bruno. Io conosco la storia della Salomeo, della Russia, la conosco bene, perché io dal 1971 al 1979 io sono stato meccanico a Salomeo, io facevo meccanico a Salomeo, e la storia la conosco molto bene. La macchina che stiamo genitando, in realtà sud io facciamo le cerniere esterne, addirittura le cerniere esterne in realtà sud. Poi da avanti, poi cosa era successo? Negli anni 70, il 73, se vi ricordate, austerici e cose, le macchine erano vendute, la Salomeo aveva migliaia e migliaia e migliaia di macchine, soltanto col fondo, all'aperto, non erano le macchine che erano dentro i capannoni, all'aperto queste migliaia e migliaia di macchine che avevano soltanto il fondo, prima di essere verniciate, le macchine erano aperte, ma per mesi rimanevano aperte. Dunque, avevano preso questa luce, non avevano cercato di migliorarle, però poi, comunque, avevano un paio d'anni, ma addirittura era bucante, si bucava la carrozzeria sotto materiali probabilmente scadenti, lavorati male, forse sotto misura. Però io mi ricordo molto bene che noi facevamo italiani alle macchine nuove, che facevano lavorando con l'altro momento. E dopo un paio d'anni arrivavano a mettere la macchina in garanzia, incazzati perché erano macchine che hanno fatto quelle che hanno resistito, poi erano gli hanno fatto tutti. Che ne ha fatto tutti, erano degli anni 80, quasi alla fine, le ultime hanno fatto due anni fa, quelle erano un po' migliori, ma le prime, quelle con le cerniere esterne, quelle erano un dramma. Sì, ma era un periodo, non solo l'Alfa, ripeto, anche altre macchine. Per esempio invece con la Golf, io ho avuto anche la Golf, di mio padre più che altro, dai. A volte tu ti sbattevi, ne saltava la vernice, mica prendeva la ruggine, la mia sembrava zingata, no? Avanti Giulio. Ok, poi ho avuto anche una macchinetta tipo la Panda Fire, quella mi dimenticavo di mettere la benzina, perché consumavo pochissimo ed era molto ma molto comoda per il lavoro che facevo io, caricavo dentro la città. Tanto di quella cosa che non avete idea voi, abbassavo i sedili e diventavo un furgoncino, era proprio di lusso veramente. Sì, no, era. Poi, ho avuto anche il motocarro a quattro ruote, il motocarro a tre ruote, nello stesso tempo ce l'avevo tutti e due, cioè uno era l'Ape 501, mi sembra che si chiamasse, l'altro invece era la 700, 703, boh, una cosa del genere, a quattro ruote, anche quella, vabbè, comunque. Sono passati tanti anni, per cui io ho la patente dal 1966, fate conto quanti anni sono, 55 anni, una cosa del genere, 55, 54, 55 anni fa, vai Bru. Ok, anche io ho avuto tanto di macchina, io poi viaggiavo molto, adesso ho avuto anche la Golf l'ho avuto 13 anni, ho cambiato tre volte il motore, perché quando viaggiavo, io viaggiavo tutta la provincia, andavo a Cagliari, a Nura, a Lestano, a lavorare, con la Golf ho cambiato tre motori, in 13 anni ho fatto centinaia di migliaia di chilometri. Questa anche non ho ancora usato, la sto preservando da quando sono in pensione, questa macchina qua ha quasi 5 anni, avrà più o meno, a 100.000 chilometri, ma non la sto più usando. Tutti i giorni me ne vado a Pamona, quello che ho detto io. Ma prima il motore mi ho bruciato, ma ho avuto tante di quelle macchine. E poi sempre il motore preparato, perché anche se va un motore veloce. La Golf era 1003, avevo un motore del 1007, avevo un PC, per cui avevo questa mania, io avevo sempre fretta quando viaggiavo. Sì, anche io ho avuto tante macchine. Vabbè, comunque, averli oggi con le macchine, io voglio. No, motore solo uno mi ha abbandonato, anzi no, una volta uno di una Panda, e una volta uno della Jeep, che la galleria era un 2008 turbo, mi ha abbandonato anche quello, ha ceduto la... Cioè,